Incontri di Gianfranco Fabi. La solitudine dell'uomo vive, vive nel marcio di quelle bustarelle comunali che concepiscono quartieri già infettati. Ma per cambiare un po' ci costa, ma per cambiare un po' ci costa, fino a quando noi non ci saremo liberati. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica con Adriano Celentano, con questa elegia del cambiamento. Iniziamo l'incontro di oggi. Buongiorno e buona domenica, Enrico Loccioni. Buongiorno e buona domenica a voi. Enrico Loccioni, imprenditore marchigiano, titolare di un'impresa che è appunto la Loccioni, Gruppo Loccioni. Che cosa fa il Gruppo Loccioni? Loccioni fa diverse cose, ma soprattutto affianca i clienti a risolvere problemi costosi o fastidiosi. Risolvere i problemi, e quindi è una società che è protesa a cambiare le cose, e questo nasce un po' anche la sua scelta di mettere questo brano di Adriano Celentano, che è appunto un profeta del cambiamento, un cambiamento reale. Cosa vuol dire per lei cambiamento? Ma il cambiamento secondo me non esiste, nel senso che esiste un miglioramento continuo. È proprio il nostro gruppo che per scelta non è partito dalla fabbricazione di prodotti, ma ha sviluppato questa idea di essere a servizio dell'industria, proprio per, attraverso le nostre soluzioni, migliorare prodotti o processi. E proprio come modello innovativo, non per strategia iniziale, ma poi è diventata invece una caratteristica fondamentale, l'inserimento continuo dei giovani permette di portare nel gruppo nuova conoscenza e di conseguenza un miglioramento continuo. Ecco, dei giovani parleremo tra poco. Vediamo un po' come è nata la Loccioni, questo gruppo Loccioni. Quando è nata l'idea, penso da giovane appunto, da molto giovane, di una realtà come quella marchigiana dell'interno delle Marche, una realtà agricola ancora negli anni 60, di fare l'imprenditore? Ma questa impresa nasce proprio negli anni 60 dal desiderio di non dipendere né dalla famiglia di mio padre, che comunque fa ancora un'attività agricola, ma neanche dall'industria, che occupava appunto persone per lavori ripetitivi. E così nasce, perché proprio in quel periodo lì imprenditori come Aristide Merloni hanno portato in un'attività prevalentemente agricola, ha portato un'attività industriale che ha permesso a tanti, anche a me, di poter avviare quella voglia così di realizzarsi avviando un'attività impresa. Non, agli inizi è chiaro che non c'era neanche l'idea, io dovevo ancora fare il militare quando ho avviato questa cosa qua, no? Però è stata sempre da allora in maniera proprio rinnovata una motivazione continua a sviluppare questa idea di fare impresa, creare qualcosa di bello che potesse durare nel tempo. Ecco, e la passione per la tecnologia, per l'innovazione, per l'high tech, questa è nata di pari passo con la necessità di rispondere con soluzioni nuove a problemi magari vecchi. Ma io sono un cattivo tecnico, sono un ex elettricista, forse un pessimo elettricista, non ho mai approfondito la materia tecnica, ma l'ho solo così in qualche modo impiegata per valorizzare da un lato le persone, e anche perché per costruire soluzioni occorrono comunque competenze tecniche. Ecco, competenze tecniche, tra l'altro lei ha ricevuto la laurea honoris causa in tecnologia per l'innovazione, quindi per la capacità anche di motivare le persone all'innovazione. Non è forse facile motivare le persone, motivare soprattutto i giovani, far capire che la capacità creativa è in fondo la cosa fondamentale, che va innestata ovviamente sull'esperienza. Ma sicuro la motivazione è una delle caratteristiche fondamentali. Molto spesso abbiamo inventato dei lavori proprio per legare un'esigenza di un giovane, di un ragazzo che voglia mettersi alla prova proprio partendo da una sua passione. Molte volte non l'ha ancora scoperta, allora farla scoprire e dare la possibilità a un giovane di confrontarsi con un obiettivo è la cosa più bella che c'è all'interno di questa impresa. Ecco, l'età media dei vostri collaboratori, che lei non chiama dipendenti mi sembra, chiama Proprio per il tipo di lavoro noi abbiamo bisogno di collaborazione, che è facile da dire ma molto più complicata da realizzare. Per realizzare progetti così complessi che richiedono competenze non solo tecniche ma anche competenze economiche piuttosto che anche relazionali, c'è bisogno di far lavorare, indirizzare più persone sullo stesso progetto. Poi un progetto che finisce come il sarto che costruisce un vestito, si ricomincia da capo, per cui è lì l'idea di approfittare della cultura del territorio, della tradizione contadina, della tradizione innovazione, ci ha permesso di innovare e trasferire queste esperienze storiche nell'attuale momento. Ecco, dicevamo appunto l'età media è 33 anni, non è un po' bassa? Beh, teniamola bassa sempre, perché comunque il giovane è un portatore non di esperienza, per quello abbiamo un altro progetto, ma il ragazzo che comunque ha investito anni di studio, e non solo di studio, ma ha messo in parallelo il suo percorso di studi con altre esperienze di vita, quali trasferte all'estero, percorsi negli ambienti dello sport e così via, sono le persone migliori che ci aiutano a realizzare al nostro interno comunque loro i progetti. Perciò il giovane porta conoscenza, porta entusiasmo, se messo alla prova fa delle cose inimmaginabili. Noi possiamo raccontare infinite storie, perché ogni ragazzo ha qualcosa di suo, di personale da realizzare. Ecco, la sua azienda e il suo gruppo ha conseguito molti premi, molti riconoscimenti, il miglior posto di lavoro, l'imprenditore dell'anno. Farne l'elenco forse occuperebbe metà trasmissione. Qual è quello che le ha dato più soddisfazione? Magari anche perché più imprevisto, o anche perché conseguito con un po' di fatica, diciamo. I premi non per sottovalutare questo aspetto, è una cosa che appartiene a qualcosa che è già successo, ma quello che effettivamente è più gratificante è quando un cliente ti riconsegna nuova fiducia, no? Ti dà credito. Questa è la garanzia per la sopravvivenza dell'impresa e delle persone che animano l'impresa. Perciò il premio più grosso che imprenditorialmente ricevo continuamente è la fiducia dei clienti, ma soprattutto questa fiducia dei collaboratori rinnovata continuamente, ma anche e soprattutto quella possibilità anche per un collaboratore di avviare un progetto in proprio e che rimane nel nostro territorio. Questo è la cosa più divertente. Ecco, abbiamo detto che è iniziata nell'ambito delle installazioni elettriche, delle componentistiche per le aziende, per le altre fabbriche, no? Poi si è espansa anche in altri settori, uno tipico quello dell'ambiente, mi sembra. Come definirebbe adesso il gruppo Luccioni? Ma anche qui c'è da rilevare che i contadini, per un fatto di sopravvivenza, diversificavano il piccolo appezzamento di terreno in diverse culture allo scopo di ridurre il rischio. Questa esperienza l'abbiamo portata all'interno di un'attività industriale, dividendo i mercati abbiamo abbassato il rischio. Perciò abbiamo iniziato anche qui con gli impianti con Aristide Merloni e Francesco Merloni, poi abbiamo avuto un secondo step nel 74-76 grazie a un altro imprenditore innovatore come Vittorio Merloni, con il collaudo degli elettrodomestici, diventando leader al mondo del collaudo dei sistemi di test per elettrodomestici. Poi abbiamo cominciato a circolare su altri settori, l'automotive, diventando fornitori di Daimler, Mercedes, Volkswagen e di altri gruppi di primo livello internazionale. Poi siamo andati appresso al discorso ambientale e soprattutto cercare, attraverso anche un modello organizzativo che tende a guardare all'innovazione come il motore dello sviluppo e a guardare avanti, per cui crederci e investire, ma su attività che saranno i futuri bisogni di quello che noi come soggetti cerchiamo e che andiamo cercando, cioè quello di vivere meglio spendendo di meno. Questo alimenta una domanda che per noi è un'occasione di lavoro straordinaria. Con un'attenzione all'ambiente in sottofondo, alla green economy in fondo, voi siete una società tutta green economy. Sì, no, già 20 anni fa abbiamo iniziato dei percorsi con partner come Enel, soggetti che producono anche in Italia energia da fonti non rinnovabili. Abbiamo cominciato a lavorare con loro e abbiamo visto che il discorso dell'ambiente, che di fatto è qualcosa che interessa a tutti ma non è di nessuno, ma lavorando invece sul discorso della riduzione dell'uso delle fonti non rinnovabili con fonti rinnovabili, crea una grande occasione di lavoro e ci permette di crearne ulteriore di lavoro, cercando di andare incontro anche a problemi che oggi abbiamo, che è quello della riduzione dello spreco, cioè nel senso che i contadini dello spreco ne facevano, no, una grande virtù, e tutti i risparmi sono nati da questa caratteristica del marchigiano che comunque tende a mettere da parte. Oggi credo che proprio andare a cercare giacimenti di spreco, proprio la green economy è una di queste caratteristiche, permette sicuramente di riportare localmente del lavoro per artigiani, per persone che amano anche fare un lavoro manuale, anche intellettuale, ricreando così la bellezza, ricreando proprio quell'attenzione al gusto di fare le cose. Quindi bisogna sposare in fondo la tradizione con l'innovazione. Io ne sono fermamente convinto, non si può non apprezzare chi prima di noi in alcuni territori come il nostro, io sono dell'entroterra agricolo dell'Anconetano, amo quell'area lì. Tutte le persone vengono non più di mezz'ora di macchina da qui, salvo ragazzi internazionali. Effettivamente i nostri mezzadri, i nostri monaci prima hanno lasciato, hanno sedimentato delle cose che oggi noi possiamo attingere a più mani, e naturalmente facendo quello che serve oggi, cioè quello che la tecnologia permette oggi di avvicinare la natura all'uomo, vedendo la natura come un esempio. Gli stati invocano la crescita, ma l'unica via contro lo spread US per una sana e angelica economia è la decrescita. Ancora con il mutuo, Adriano Celentano, riprendiamo il nostro colloquio con Enrico Loccioni, fondatore titolare del gruppo Loccioni, che ha sede nelle Marche, un gruppo ormai diversificato in molti settori, da quello elettrico a quello ambientale, ma lo vedremo tra poco. Appunto, dicevamo, un gruppo che ha sede nelle Marche, e lei ci tiene molto alla marchigianità. Assolutamente. Ecco, qual è il carattere distintivo di un marchigiano? Ma secondo me anche nei momenti difficili non chiede aiuto a nessuno, ma la solidarietà in un territorio e il rispetto fra persone è ancora una caratteristica che comunque ci protegge e ci aiuta anche nei momenti di difficoltà. Ecco, qualche decennio fa si è parlato molto della Via Adriatica, con la crescita che si è avuta nell'ambito appunto non solo del Nord-Est, ma anche nell'ambito delle Marche, con molti settori, molte attività. Ecco, alcuni hanno avuto un certo declino, altri sono riusciti a trasformarsi, a rilanciarsi. C'è ancora una Via Adriatica? Ma io credo che ci sia, forse va rinnovata. Io vengo da quell'esperienza, avendo vissuto appunto in una casa contadina, ho visto arrivare il primo Pipigas, la prima radio, la prima televisione, i mezzi meccanici. Abbiamo vissuto questi 30-40 anni in maniera straordinaria. Non è pensabile che si possa continuare a crescere in questa maniera qui. Ma forse, che è un po' anche l'esperienza del nostro gruppo, una crescita qualitativa che si basa sì sul profitto, ma io sono imprenditorialmente convinto che il profitto, il principio del profitto, senza il principio dei valori non si va da nessuna parte, porta alla distruzione. Allora, questa qualità che nel nostro entroterra agricolo ancora è possibile, perché ci sono ancora relazioni umane straordinarie, questo sicuramente ci può aiutare molto in questo momento. Ecco, valori che possono essere condivisi, che possono essere appunto un terreno su cui costruire anche delle realtà. Voi avete realizzato una cosa che avete chiamato Leaf Community. Che cosa si tratta? Sì, è un'idea che un po' anche questa, un po' da marchigiano, che si osserva quello che fa qualche altro, no? Allora, siamo dei buoni osservatori come marchigiani, e allora l'idea, perché poi noi dobbiamo avere clienti che alimentano l'impresa, perché se non abbiamo clienti che ci pagano, tutto quello che stiamo raccontando non sarebbe esistito. Se non avessimo avuto anche lungo il percorso persone, ricordo un direttore di banca, Luigi Bacci, che nell'86 in una visita eravamo piccoli e lui alla fine ci ha detto: guardi Loccioni, io non ho capito quello che lei vuole fare, però ho capito quello che non vuole fare. Allora lei va avanti e noi ci mettiamo i soldi. Avere credito era oggi la chiave di volta in questa. Allora abbiamo realizzato nel nostro, 4 anni fa l'abbiamo inaugurata, una case history a casa nostra per i nostri bisogni di buone pratiche, cioè avere edifici dove le persone lavorano più confortevoli, meno energivori e sicuramente meno dispendiosi in termini di consumo e di mantenimento. Ecco, questa cosa ha permesso di coinvolgere sul territorio istituzioni come il mondo pubblico, ma non solo l'università, l'ospedale, che anche loro hanno sicuramente tante cose da poter fare e così via. Questa community ci ha permesso di sviluppare una partnership pubblico-privato, che per esempio con l'ospedale di Torrette abbiamo realizzato all'interno dell'ospedale, ma ospitando anche persone dell'ospedale, un laboratorio dove l'ospedale è diventato per noi il laboratorio per la sperimentazione di una macchina che risolve un problema mondiale, e l'ospedale di Torrette ha ospitato in questi anni un sacco di persone di altri ospedali, anche internazionali, per far vedere come nelle Marche si può lavorare insieme tra pubblico e privato. C'è una macchina di che tipo in un ospedale, cioè progettata da voi? Ma noi in genere cosa facciamo? Andiamo a vedere in alcuni settori quali possono essere i problemi risolti e come risolverli. In questo caso un farmacista di un centro di oncologia aveva un problema, o comunque ci ha raccontato di un problema. Il problema era la preparazione automatica delle dosi di chemioterapia nei centri, appunto, nelle farmacie di oncologia. Noi, con le nostre esperienze, trasferendo da un settore all'altro, abbiamo messo insieme una idea di macchina automatica robotizzata che avesse risolto i problemi sia per l'operatore e soprattutto per il paziente. Ecco, da allora questa macchina ha fatto veramente il giro, perché abbiamo delle installazioni in Giappone piuttosto che a Cleveland, negli Stati Uniti, in Italia, l'Istituto Europeo di Oncologia e tanti altri centri. Ecco, quindi non ci sono dei confini nell'ambito operativo, bisogna avere anche una contaminazione positiva tra le competenze, possiamo dire. Su questo, se posso, vorrei anche raccontare un episodio che stiamo vivendo adesso proprio. Noi siamo lungo una valle, la Valle del Lesino, e i fiumi rappresentano a volte delle minacce per l'impresa. Noi l'abbiamo già avuta una nel 90, e allora ci siamo detti qualche tempo fa, dobbiamo mettere in sicurezza la nostra area. Se aspettiamo comunque che il pubblico decida di fare questa cosa, forse passa troppo tempo e rischiamo. Però abbiamo, così ci siamo detti, vogliamo adottare un tratto di fiume. Cioè abbiamo fatto un progetto, abbiamo investito noi, abbiamo coinvolto con questo progetto tutte le istituzioni locali, dal comune alla provincia alla regione, tutti i soggetti che normalmente non abbiamo contatti frequenti. Beh, abbiamo avuto l'autorizzazione partendo ancora qui dall'esempio dei contadini, che i vallati e i fiumi erano una fonte di energia per la biomassa. Andavano a raccogliere legna per scaldare il forno per far pane, usavano la forza idraulica come forza meccanica per i mulini e usavano il materiale che il fiume accumula venendo la ghiaia per imbracciare le strade. Ecco, noi abbiamo progettato il poter utilizzare l'energia di questo tratto di fiume ridando in cambio a spese nostre lavori che ci sono da fare lungo questo fiume. Grande sorpresa, ma la cosa, dopo un lungo lavoro fatto in sinergia col mondo pubblico, devo dire che funziona con molte sorprese. Da dove recuperiamo? Qualcuno ci dice, ma perché spendi dei soldi in una cosa non privata? Beh, noi comunque, il presupposto è che l'impresa guadagni. Se l'impresa guadagna, deve comunque pagare delle tasse. Certo, ha una responsabilità sociale anche, una responsabilità verso il territorio che poi appunto si riflette positivamente sull'operatività dell'impresa. Questa cosa funziona anche come esempio, perché la cosa che abbiamo fatto in questo preciso lavoro è che durante anche l'estate hanno lavorato dei muratori, gente che fa trasporti, dei tecnici. La cosa importante è quella di crearlo il lavoro. E soprattutto in momenti come questi, dove non c'è più la fabbrica, non c'è più la grande aggregazione, c'è meno manifattura, c'è tante cose da fare che possono diventare sul territorio delle cose che si possono replicare. Ci sono delle esigenze sociali a cui si può rispondere, a cui si può rispondere in maniera non necessariamente conflittuale. Troppo spesso nella società di oggi siamo abituati un po' al conflitto, alla pretesa. Invece questa logica della collaborazione, della cooperazione, della sussidiarietà è possibile concretamente? È possibile. Io credo che anche dal punto di vista del bilancio economico non ritorna l'investimento nel breve periodo, ma visto che sul territorio noi ci dobbiamo stare anche i prossimi 100 anni, facciamo delle cose che, come si faceva una volta, nessuno faceva un calcolo automatico se il ritorno di un investimento era quest'anno o l'anno prossimo. Noi stiamo facendo delle cose che in 10 anni il conto economico ci rende molto di più del breve. Ecco, abbiamo parlato molto del territorio, poco dell'estero. Voi siete presenti in 45 paesi, mi sembra, avete anche una espansione, diciamo, ormai globale, quindi siete molto presenti anche sul fronte estero, sul fronte internazionale, e le esportazioni sono un elemento importante della vostra attività. Anche qui siamo un po' anomali, nel senso che noi andiamo appresso al grande gruppo internazionale da cui apprendiamo molto. Da questo gruppo internazionale prendiamo delle sfide, e per noi un cliente è un mercato. Perciò questo cliente cerchiamo di seguirlo in tutte le sue evoluzioni nei paesi dove lui va a installare macchine. Perciò siamo presenti con installazioni in oltre 40 paesi nel mondo, ma per nomi nei loro settori di riferimento che sono leader di mercato. E questo è il vero valore che in qualche modo rappresenta l'interno del gruppo nostro. C'è un'opportunità che lei si pente di non aver preso, qualche occasione che avrebbe voluto e che magari si ripromette di fare in futuro? Allora, un'impresa è fatta di tante cose positive e tante cose negative. Se dovessi raccontare tutto quello che non ha funzionato, starei qui fino a domani. No, non avevo tempo. Parliamo delle cose positive, certo. Perché comunque sono ancora la maggioranza. Io almeno, vedendo il bicchiere mezzo pieno, le vedo come la grande maggioranza da diffondere, e da diffondere anche entusiasmo. Sicuramente quest'idea di crescere in maniera graduale e lenta, senza strappi, credo che è il progetto del nostro gruppo. Ed è un progetto che può andare bene anche per un paese chiamato Italia. Io credo di sì, ma vorrei ancora rappresentare al di fuori del nostro gruppo un'idea di come questo modello organizzativo abbia suscitato, come è successo anche per me, quella filiazione di spin-off, cioè più di 80 ragazzi in 30 anni, anche quest'anno 2 soggetti, hanno deciso di avviare un'attività in proprio. A me sembra che questo sia anche il ruolo sociale dell'impresa, no? Cioè, mentre faccio impresa, qualcuno può prendere questo come modello. Tutti abbiamo fatto così, anch'io ho fatto così. Ecco, quindi lei non pensa che queste persone che magari hanno lavorato qualche anno da lei e adesso se ne vanno siano persone perse, sono persone che costruiscono qualcosa di cui anche lei può avere poi un ritorno positivo? Assolutamente, infatti sono persone che per questa libertà di non essere bloccate all'interno di un'impresa, ma anche la libertà di fare un'attività in proprio, perché l'imprenditore io lo considero una missione, lo considero il più bel mestiere che c'è al mondo, no? Perché comunque ti dà la libertà di scegliere, la libertà di andare avanti, no? Questo fatto di avere un patrimonio territoriale nel nostro territorio, questi 80 ragazzi o ragazze, perché ci sono anche delle ragazze, che hanno fatto questa attività in proprio, è un altro gruppo Loccioni non visibile, ma che comunque ha sviluppato competenze. Abbiamo noi investito verso queste persone e le persone hanno investito verso di noi, quello che noi chiamiamo l'azionista di lavoro, cioè certo. Il laureato che viene in un ambiente come il nostro, in effetti investe, no? il suo tempo e lo deve mettere a frutto. Ma voi ospitate anche degli studenti, dei neolaureati per brevi periodi per capire un po' com'è la realtà e anche per voi per capire se possono essere persone utili alla vostra impresa, quindi avete anche un turnover di conoscenze. Anche qui la fame gusta l'ingegno, nel senso che comunque agli inizi, non avendo soldi per pagare nessuna persona esperta, ci siamo rivolti alla scuola professionale, da cui venivo anch'io. Ed è stato l'inizio del rapporto con la scuola. Oggi, se devo ringraziare un fornitore, se lo chiamiamo fornitore, è proprio il rapporto con la scuola, con le scuole professionali, con gli istituti tecnici e con l'università. Oggi abbiamo una rete di università, abbiamo rapporti in tutto il mondo con circa 25-30 università e centri di ricerca e ospitiamo un migliaio di studenti all'anno e abbiamo un rapporto con la scuola e con le persone che vengono da questi ambienti veramente straordinario. È il nostro investimento di futuro. I giovani sono il nostro futuro. Credo sì. Grazie. Grazie Enrico Loccioni per questa visione molto anche di fiducia nel futuro, di fiducia nei giovani. Dobbiamo avere fiducia nei giovani, appunto, perché la fiducia è uno strumento di conquista. Sì, ma di conquista positiva, però non di potere. Assolutamente. Grazie Enrico Loccioni, grazie a Luca Cremonese in redazione, grazie a Filippo Reggi in regia. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. L'appuntamento con Incontri è per domenica prossima.